due battute con Leopoldo Cavalli, presidente di Fonoprint e co-direttore del Teatro delle Celebrazioni. Due battute sulla implementazione delle strutture del teatro. Sì, il programma sarà abbastanza intenso, quindi partiremo dal revamping di quello che è tutta la parte di accoglienza, quindi il foyer, la biglietteria, il bar, il servizio diciamo appunto di accoglienza per gli spettatori, per arrivare poi all'interno della sala principale, dove c'è un progetto ambizioso che parte dal rifacimento di tutte le sedute a un potenziale aumento di capienza, andando a allungare il soppalco e quindi creando circa un centinaio di nuovi posti, e poi implementazione tecnologica con un nuovo sistema audio, un nuovo sistema luci residente, la possibilità per gli spettacoli di essere trasmessi in streaming in modalità immersiva, e questa è grazie appunto alla tecnologia che il socio Fonoprint porta a teatro. Ecco, queste implementazioni quando potrebbero essere pronte? Dunque, sono implementazioni che oggi, con tutte queste criticità che ci sono sia nel mondo dell'elettronica che nel mondo dell'edilizia... La domanda era inopportuna e forse indelicata, però dal lato del fruitore... Esatto, quindi diciamo che la speranza è quella già di averle operative per la prossima stagione. Sicuramente la stagione 23-24 sarà totalmente operativa, quindi alcune di queste verranno fatte subito, altre verranno fatte a cavallo della prossima stagione. Anche perché sono miglioramenti talmente sostanziali che vale la pena far passare un altro anno eventualmente per alcuni. Sì, il desiderio sarebbe quello di finire tutto subito. Dovremmo un po' fare i conti con quelli che sono i tempi attuali, le disponibilità di maestranze, che è un po' il problema che citavamo appunto anche in conferenza stampa, e che è un problema reale. Benissimo, grazie. Grazie a voi.